Il diario di Q. Milano, 2 maggio 1547. La lettera di presentazione di Carafa ha sortito il suo effetto. L'ho letto sulla fronte imperlata di sudore di frate Anselmo Ghini e nei gesti affettati dei suoi collaboratori. Uno strano ronzarmi intorno, orecchie tese e occhi bassi. Frate Anselmo Ghini, 42 anni. Gli ultimi due passati a vagliare scrupolosamente testi in odore di eresia, per conto della congregazione del Santo Uffizio. Si è tormentato le mani per tutta la durata del colloquio, dietro uno degli scrittoi della sala di lettura del convento dei Domenicani. L'andirivieni, agitato alle mie spalle, non si è fermato un istante, quasi fossi io l'inquisitore. Un nervosismo palpabile in tutti i presenti della sala. Abbiamo parlato a bassa voce. Giovanni Miches. Il nome è stato fatto da un libraio trovato in possesso di 10 copie del Beneficio di Cristo. Constatata la sua presenza in città, Miches è stato fermato il 13 marzo. Era accompagnato dal fratello Bernardo, dal loro attendente, Odoardo Gomez, e dal libraio Pietro Perna, che non sono stati trattenuti. Il primo interrogatorio è stato condotto da frate Anselmo Ghini. Richiesto sui motivi della sua presenza a Milano, Miches ha parlato di un incontro imminente con il governatore duca Ferrante Gonzaga riguardo un'intercessione presso l'imperatore per sbloccare alcune proprietà di famiglia nelle Fiandre. Ha negato di essere coinvolto in alcun modo nella diffusione del Beneficio di Cristo, ma ha ammesso i suoi interessi nella stampa, dichiarando di essere socio d'affari dei maggiori stampatori veneziani, Giunti, Manuzio e Giolito. Miches ha aggiunto di essere a conoscenza dell'esistenza del Beneficio di Cristo, meno dei suoi contenuti, che non lo interessano affatto. Inoltre, si è detto meravigliato dell'interessamento nei suoi confronti, in merito a uno scritto che circola in Venezia senza alcuna limitazione. Il giorno successivo, dopo un secondo colloquio di cui non è stato tenuto il verbale, Miches è stato rilasciato. Alla mia domanda sul motivo di tale omissione, frate Anselmo ha risposto che in quell'occasione non erano emersi elementi ulteriori rispetto al giorno prima. Prime evidenze. Giovanni Miches è senza dubbio un tipo scaltro, che vanta sorprendenti aderenze. Non si ostentano conoscenze così altolocate se non si è in grado di comprovarle. Chi è Giovanni Miches? Frate Anselmo non dice tutta la verità, troppa titubanza, troppe incongruenze. Perché i compari di Miches non sono stati fermati? Perché non c'è traccia del verbale del secondo interrogatorio? Oggi ho preso nota. Domani darò fondamento ai malcelati timori di frate Anselmo. Milano, 3 maggio 1547. Nella cella di frate Anselmo, nessuno a origliare. È bastato meno di quello che pensassi. Il nome di Carafa evoca paura cieca. Miches ha pagato. Il frate ha cominciato a balbettare appena gli ho intimato di smettere di raccontare balle. Tremava, seduto sulla branda, io in piedi curvo su di lui. Gli ci è voluto del tempo prima di iniziare a giustificarsi. Si erano informati. Miches conosce davvero il governatore di Milano. Molti gentiluomini sono in affari con lui, dipendono dalla sua borsa. Qui le cose non sono come a Roma, qui comanda l'imperatore e al Gonzaga non piace che si mettano sotto i suoi amici. Qui non è come a Roma. Bisogna essere cauti. Si erano informati. Un pezzo grosso, una famiglia potente. Per quello non avevano fermato gli altri. Banchieri, l'imperatore ha attinto alle loro casse. Come fai a tenere in gattabuia uno così? Le guardie stesse del duca sarebbero venute a prenderlo. Tanto valeva guadagnarci qualcosa per il convento. Non si tratta di corruzione, è un lavoro difficile, tra mille ostacoli. Qui non è come a Roma. Mi ha implorato di non fare rapporto a Carafa. Paura cieca. Gli ho detto che da oggi lavorerà per me, passandomi tutte le informazioni utili. Ha ringraziato, mi ha baciato la mano. Alejandro Royas, consigliere particolare dell'arcivescovo di Milano, ovvero l'informatore spagnolo che Carafa ha attaccato alle sue calcagna. È invecchiato, è molto più grasso, merito della tavola del vescovo. Ha confermato tutto e ha aggiunto altre notizie. Juan Micas, alias Johao Miches, alias Jan Miche, alias Johan Miches, alias Giovanni Miches. Della ricca famiglia sefardita dei Miches, unitasi a quella dei Mendez, banchieri dell'imperatore. Un patrimonio considerevole e tortuosi trascorsi, sempre in bilico tra gloria e sventura, ma anche capaci di trovare una via d'uscita. La conversione al cristianesimo non è servita a impedire che i loro amici di un giorno, l'indomani, si trasformassero in persecutori. Abili e scaltri come pochi, la loro fortuna fa gola a molti, ma hanno imparato a difenderla. Da qualche anno si sono trasferiti a Venezia, dove hanno intrapreso varie attività commerciali. Giudei convertiti, banchieri spregiudicati, conosciuti dalle corti di mezza Europa. Che interesse possono avere a diffondere il beneficio di Cristo? Semplici affari? C'è da dubitarne. Alleati segreti degli spirituali? Verificare. Di certo hanno i mezzi e i contatti per diffondere il libro a macchia d'olio. Altre considerazioni. La macchina che Carafa costruisce giorno per giorno è ancora lontana dall'essere perfetta. Non tutti gli uomini sono affidabili. Milano e Venezia non sono Roma. Ogni Stato ha un padrone. Ogni padrone stabilisce i confini accettabili della corruzione. Carafa dovrà tenerne conto. Milano, 4 maggio 1547. Da qui me ne posso andare. Frate Anselmo e gli altri pusillanimi scatteranno a ogni mia richiesta. Gli spostamenti dei Miquez o dei loro soci da queste parti non passeranno inosservati. Raccogliere ogni dettaglio utile. Li tengo tutti per le palle.